giro per l'Italia, in giro per l'Italia ce ne andiamo. L'Italia è una penisola, è bagnata per tre lati lei dal mar. La parte rimanente attaccata è al continente che è l'Europa. C'è la Val d'Aosta, confina con la Francia, se France. Tra la Val d'Aosta e la Lombardia, Piemonte. E se vai in Liguria, splash splash, un tuffo nel Mar Ligure puoi far. In Trentino, in Friuli, invece puoi sciar. Se hai una fidanzata che di colpo con un gesto vuoi stupir, in Veneto, a Venezia, sulla gondola tu invitala a salir. Ma se poi ti viene fame e tu la polenta non vuoi più mangiar, in Emilia Romagna ti puoi rimpinzar di tortellini e parmigian. Sotto la pianura inizia un'altra parte che è central. In mezzo abbiamo l'Umbria, ad Assisi, San Francesco puoi trovar. A destra Ville Marche, splash splash, l'Abruzzo e poi il Molise, splash splash, un tuffo nell'Adriatico, Adriatico puoi far. Ad ovest la Toscana, gli Uffizi di Firenze e Pisa, con la torre che pende Viareggio, poi con il suo grande carneval. Nell'Alpe c'è la capitale, Roma, Capo, Friuli, tu puoi visitar. In basso c'è la Sicilia, la Campania, sai, e il Vesuvio avrai. In Basilicata i sassi di Matera puoi guardar. Se passi per la Puglia tu pizzica e taranta puoi ballar. Ma se pizzica la lingua, ai ai, l'Anduia calabrese sputerai. In Sardegna e in Sicilia di corsa nuoterai. Questa è l'Italia. Allora, buongiorno di nuovo a tutti e tutte, ore 13.07, cominciamo con un po' di ritardo una nuova puntata, la seconda per la precisione, di In Giro per l'Italia, una nuova trasmissione che vuole andare regione per regione a indagare e conoscere la situazione sia economica che sociale delle varie città e province, ma anche soprattutto quanto compagni e compagni organizzati mettono in campo nella propria città. E questa puntata è dedicata alla Regione Calabria, come già avevamo anticipato qualche settimana fa, facendo la prima puntata invece sulla Regione Sicilia. E abbiamo alcuni contatti con un compagno di SS Rosarno, un compagno del Centro Sociale Cartella di Reggio Calabria e compagni di Cosenza, e magari cercando di perdere meno tempo possibile, perché appunto purtroppo abbiamo cominciato in ritardo, e io cercherei di ricalcare un po' lo stampo della puntata precedente, magari appunto questa volta tenendoci nei limiti di tempo di un'ora, per cui la prima cosa che chiedo a questo compagno di SOS Rosarno e di farci, magari, visto che si parla di una rete e di una lotta molto specifica, qual è la situazione in cui, sociale soprattutto, in cui si trova ad agire la sua realtà politica. Ci senti? Sì, mi sento benissimo. Buongiorno, buon appetito a tutte e tutti. Allora, io sono Arturo di SOS Rosarno e sono uno dei soci fondatori dell'associazione e uno dei componenti di una delle due squadre di braccianti che lavorano e raccolgono arance e mandarini che mandiamo in giro per l'Italia. Prevalentemente sono due squadre composte da braccianti africani, però ci sono due braccianti italiani, io e un altro socio che è Tony. Allora, rispetto al contesto, io parlo dello specifico della piana di Gioia Tauro. Rosarno è il riferimento ovviamente mediatico, soprattutto dopo la rivolta, o lo è Gioia Tauro per il porto. In realtà la piana è un'area abbastanza vasta, più di 240 metri quadri, sono 33 comuni, quasi 170.000 abitanti, e della fascia tirrenico, diciamo, tra l'Aspromonte, per farla breve, e il Mar Tirreno. È una zona da sin dal secondo dopoguerra, sempre di più nei decenni che hanno seguito il dopoguerra, vocata all'agricoltura monoculturale, prima l'olio prevalentemente, che era una monocoltura ancora più risalente, e poi via più gli agrumi, e il tutto ovviamente secondo gli orientamenti della comunità europea e quindi dell'agroindustria. Essenzialmente le arance della piana di Gioia Tauro erano destinate a fare i succhi concentrati, il succo concentrato veniva viene ancora, lo si può, ma per poco, in forma residuo. Veniva prodotto nella piana questo succo concentrato per i soft drinks cosiddetti, cioè la Fanta per esempio, oppure l'olio, altrettanto una produzione massiva legata appunto alla filiera industriale, per dire Carapelli si comprava moltissimo olio qui da noi, che siamo la seconda regione dopo la Puglia per produzione di olio, però era un olio di pessima qualità, lampante, poi si sa nell'industria viene rettificato, insomma una produzione monoculturale molto dipendente e che però ha negli anni costituito fattore di avanzamento sociale. Questo è un territorio che ha conosciuto imponenti lotte bracciantili, mentre altri territori dove gli assetti erano più latifondistici sono più famosi per le lotte contadine, per l'occupazione delle terre. Questa zona è una zona dove non c'è il grosso latifondo, è una zona dove la produzione capitalistica è molto risalente in agricoltura, anche se ovviamente in contesto di sottosviluppo, e quindi dove il movimento bracciantile era numericamente imponente e ha conosciuto momenti anche molto alti di combattività, soprattutto femminile, con le raccoglitrici di olive. E poi paradossalmente proprio qui si è realizzata invece, mentre le occupazioni delle terre sono fallite ovunque, un'occupazione riuscita proprio a Rosarno, nella zona del bosco selvaggio, e ancora oggi più di 3.000 persone vivono lì in quella zona, dove hanno realizzato il proprio giardino di agrumi, e famiglie che erano di braccianti senza terra hanno conosciuto questo avanzamento sociale che gli ha consentito magari di mandare i figli anche all'università. Questa, diciamo, la parabola dei decenni del dopoguerra, che poi ha conosciuto quelle forme invece sempre più speculative e degradanti che si possono realizzare in una zona depressa, sottosviluppata, dove quindi anche un'agricoltura che cresce a uso e consumo appunto delle multinazionali, dell'agroindustria, e quindi anche tutte le corruttele che si conoscono, le truffe, le finte cooperative, le speculazioni, l'innestarsi di quel potere locale mafioso, e quindi ancora di più il pregiudicare ogni sviluppo virtuoso dell'agricoltura, che proprio per farla breve veniva foraggiata per produrre sempre di più, di modo che il singolo produttore non era interessato più ormai neanche tanto alla vendita del frutto quanto alle sovvenzioni, con tutte le truffe che si sono innestate. Ovviamente con l'internazionalizzazione dagli anni 90 in poi con la modifica conseguente delle politiche di sovvenzionamenti della PAC, della politica agricola comunitaria, tutto questo crolla perché si riassettano le filiere agroindustriali in contesto di internazionalizzazione, per dirla in modo molto semplice. Per esempio il succo concentrato conviene di più farlo venire dal Brasile che venirlo a comprare a Rosarno, e quindi, per dire, un settore che era quello della trasformazione, che occupava circa 5.000 addetti nella zona di Rosarno, tracolla e insomma chiude, e con questo anche tutta quella che è la produzione agrumicola. Praticamente oggi non conviene più raccogliere le arance, e per quello che riguarda l'altro prodotto, le clementine, altrettanto c'è una dinamica speculativa al ribasso sui prezzi, sul terreno su cui gozzovigliano i commercianti locali, i grossi commercianti locali che rastrellano il prodotto e lo comprano spesso sulla pianta e fanno da mediazione con le filiere della grande distribuzione, così che loro riescono a fare economia di scala, ad accaparrarsi tutto il prodotto, mentre i contadini praticamente ormai ogni anno devono decidere se raccogliere o meno, nella quasi certezza che non gli converrà raccogliere, che neanche riusciranno a recuperare i costi di produzione. In questo contesto si colloca la tragedia della manodopera stagionale e non la faccio troppo lunga perché credo, insomma, che chi ci ascolta conosca le vicende che hanno visto protagonisti braccianti prima e dopo il 2010 della rivolta. Sicuramente, appunto, nel crollo di questa economia dipendente sottosviluppata si colloca anche tutto quel fenomeno sia di super sfruttamento della manodopera stagionale immigrata, che avviene a Rosarno come avviene in tutta l'agricoltura mediterranea, sia le tensioni dovute a un abbassamento della domanda di lavoro, una crescita dell'offerta, cioè più gente che viene a cercare lavoro qui in questo territorio, soprattutto a ridosso del 2010, quindi tensioni, quindi quello che abbiamo conosciuto, cioè lo sbocco in una dinamica di conflitto etnico di quelle che sono invece le dinamiche della lotta di classe, che però non trovano purtroppo ancora in questo territorio la possibilità di esprimersi come tali, così come era stato in passato, cioè come lotta di classe dei piccoli contadini, dei braccianti contro il sistema di speculazione e sfruttamento sia dei grossi commercianti locali e soprattutto di quel circuito dell'agroindustria e grande distribuzione che governa queste dinamiche. Questo per quello che riguarda l'agricoltura, che è il settore principale ancora per un numero di addetti in questa zona. La Calabria è in generale la regione in Italia dove il tasso di famiglie che trae reddito dell'agricoltura è doppio rispetto alla media italiana, cioè è la zona più agricola d'Italia, si potrebbe dire. Tutti hanno il pezzo di terra. L'altro fattore, diciamo, economico rilevante, come sapete, è il porto di Gioia Tauro, che occupa migliaia di operai, anche quello in mano a una multinazionale, anche quella una storia di speculazioni e di imposizioni. Anche lì la MCT che arriva in questo deserto si prende questa infrastruttura che era figlia del pacchetto Colombo, di quella risposta dello Stato democristiano alla rivolta di Reggio Calabria secondo la logica dei poli industriali, no? Dell'industrializzazione dell'alto, che qui nella piana ci ha lasciato per esempio tre aree industriali piene di capannoni vuoti, e insieme a questo il porto di Gioia Tauro, che a un certo punto negli anni 90 viene preso in carico finalmente da questa multinazionale che viene qui a fare il bello e il cattivo tempo, ad accordarsi con i poteri locali, dai sindacati all'andrangheta, passando per ovviamente la politica, a lottizzare i posti di lavoro. Eppure in questo contesto sorgono esperienze interessanti di lotta operaia, di autonomia tra virgolette, non nel senso del riferimento politico degli anni 70, ma proprio del fenomeno dell'autonomia operaia, con un sindacato di base che si chiama SUL, che a un certo punto si rompe le scatole e che ancora oggi dà battaglia ed è maggioritario dentro il porto e riesce a combattere sia le dinamiche di clientela sia le dinamiche di genuflessione verso la multinazionale da parte degli altri sindacati, a combattere le speculazioni di questa stessa multinazionale che gestisce i suoi vettori negli altri porti, che ha deprime l'infrastruttura in base ai propri interessi sullo scacchiere mediterraneo. Senti, ecco, questo è il quadro. Per chiudere, ovviamente, in un contesto di disoccupazione massiva e crescente, perché chiaramente già di base è un'area depressa e sottosviluppata con i tassi di disoccupazione più alti d'Italia. Non più alti della Calabria, la piana magari nel contesto della Calabria sta non è neanche una delle zone peggiori, quindi un tasso altissimo di disoccupazione che in questi due frangenti che prima accennavo, del tracollo dell'economia agricola dipendente e della crisi che coinvolge anche il porto, che ancora ci sono solo, per quello che riguarda gli operai del porto, per non parlare dell'indotto, 500 operai in cassa integrazione. Chiaramente la crisi qua si stratifica su una base già acuta di disagio e veramente diventa un fenomeno apocalittico. Senti, ha descritto un quadro abbastanza complessivo della situazione economica e sociale che vivete lì. Entrando nello specifico della vostra attività politica, magari se puoi dirci qualcosina, come si articola ed eventualmente quali problematiche e specificità si trova davanti. Io credo che già qualcosina l'hai detta, però magari nello specificare l'attività politica si può anche capire meglio. Noi nasciamo su spinta di alcuni attivisti di un'associazione che oggi purtroppo non esiste più, che si chiamava Africa Labbria, che si occupava di solidarietà con i braccianti immigrati, e che dopo la rivolta ci siamo posti il problema appunto di come intervenire su questa contraddizione grave della cosiddetta guerra tra poveri, quello che adesso è un luogo comune ormai, e che ci faceva vedere questi piccoli contadini o disoccupati del territorio durante la rivolta satanati contro gli africani, no? Secondo la dinamica del ricasco, per cui il proprio disagio io lo vendico contro chi è più debole di me, e cercare invece di avviare percorsi che concretamente, materialmente, iniziassero una saldatura di classe tra le fasce deboli, le fasce subalterne della popolazione, diciamo, autoctona, e questa massa bracciantile, che comunque è anche questa un elemento strutturale degli assetti economici e sociali del territorio. E allora abbiamo deciso, conoscendo l'esperienza che allora magari era meno impetuosa di come oggi a livello nazionale dei gruppi di acquisto solidali, di sperimentare una proposta di agricoltura etica che prevedesse l'assunzione regolare dei braccianti, e ovviamente un discorso di agricoltura biologica, quindi di rispetto della terra. Da questa base molto semplice è avviato l'esperimento, che ovviamente maturava anche come esperienza associativa, quindi come dinamica di partecipazione e animazione del territorio in chiave multietnica. L'esperimento nel suo piccolo è riuscito e continua a riuscire, va avanti e si sviluppa, perché cresce la risposta che abbiamo a livello nazionale, e cresce anche la possibilità di coinvolgimento di braccianti nella produzione di SOS Rosarno, ovviamente con alti e bassi, con tutte le difficoltà del territorio. Quindi l'esperimento va bene, ovviamente è un esperimento di nicchia, e soprattutto l'orizzonte politico nostro non è quello di sostituire il mercato etico al mercato tout court. Il nostro problema ovviamente è di provare quella transizione di cui si parla nei contesti dell'economia critica, cioè riconvertire la produzione. Noi dobbiamo liberarci di questo assetto dipendente sia in agricoltura sia in tutto il resto, e le esperienze con cui ci interfacciamo, con cui dialoghiamo, sono quelle per esempio della fabbrica recuperata Rimaflo a Trezzano sul Naviglio a Milano, oppure altre esperienze che si realizzano nel sud Italia. E il discorso che noi vorremmo sviluppare a partire da questa base della produzione etica è quello di una riappropriazione del territorio che crei piccole unità produttive a base cooperativa, quindi la cosiddetta economia dei lavoratori. Per questo abbiamo messo dallo scorso inverno a coltura orticola 3 ettari che sono gestiti da un gruppo di cui faccio parte io, anche di diciamo precari italiani e africani, tutto gestito orizzontalmente, nella prospettiva di creare una cooperativa agricola. Oggi i componenti africani di SOS Rosarno sono una componente attiva, partecipe, pienamente consapevole, e piano piano anche, insomma, iniziano a condurre in senso proprio l'attività dell'associazione. Le difficoltà ovviamente sono quelle di un territorio anche dove tu trovi un vacuum, proprio c'è uno spazio generazionale tra i 20 e i 50 anni o i 40 anni, ma più i 50 anni, dove tu hai proprio tutta gente che se ne va, quindi quella fascia che sarebbe quella più facilmente abbordabile per dinamiche di partecipazione politica è proprio quella che sul territorio è più spopolata, perché la gente che se ne va tendenzialmente o per l'università o per cercare fortuna, e quindi questa è una difficoltà per un verso. Per l'altro sicuramente una realtà paesana, tu parlavi di città, noi ci muoviamo tra paesini, il mio paesino che è Nicotera Marina c'ha 2000 abitanti, Rosarno ne ha di più, insomma arriviamo anche a delle cittadine, però è un contesto rurale in quello in cui ci muoviamo, e quindi anche la dinamica della partecipazione politica si realizza in senso intergenerazionale. Va bene, senti, ci avevi fatto presente delle tue necessità e problematiche anche di tempo. Io credo che comunque hai avviato molto bene una discussione sulla vostra regione, basando anche sulle specificità della tua zona, e chiaramente c'è anche descritto una parte di attività politica molto specifica, l'hai definita di nicchia, però è anche importante partire da situazioni specifiche di lotta per cercare poi magari di estendere il campo a un ambito un po' più generale e anche in qualche misura coordinato. E se ti va, noi ti ringraziamo, magari chiedendoti se vuoi aggiungere qualcosa, concludere in qualche modo questo tuo intervento, e poi magari ti lasciamo libero, scusandoci anche per il ritardo con cui è cominciata questa puntata. No, aggiungo solo, chi voglia approfondire la nostra esperienza può andare sul sito www.ssrosarno.org. E che quest'anno siamo contenti perché ci avventuriamo con altre realtà della Sicilia, della Lucania e della Puglia, e anche altre realtà calabresi, che imbarchiamo nella nave di SOS Rosarno, proponendo i loro prodotti, che però sono altrettanti percorsi politici di partecipazione e di lotta sul territorio. E vi ringrazio, buon lavoro e un saluto a tutti e tutti. Va bene, grazie a te, ciao, buona giornata. Ciao. Ad esempio a me piace la strada col verde bruciato, magari sul tardi, macchie più scure senza rugiada, d'India e le spine dei cardi. Ad esempio a me piace vedere la donna nel nero del lutto di sempre sulla sua soglia tutte le sere, che aspetta il marito che torna dai campi, ma come fare, non so. Ad esempio a me piace rubare le pere mature sui rami se ho fame, ma quando bevo sono pronto a pagare l'acqua che in quella terra è più del pane. Camminare con quel contadino che forse fa la stessa mia strada, parlare dell'uva, parlare del vino, che ancora è un lusso per lui che lo fa, ma come fare, non so. Si devo Allora ritorniamo in onda per andare avanti con questa puntata sulla Calabria a tempi stretti, cercando quindi di guadagnare tempo e non dilungarci troppo come abbiamo fatto purtroppo l'altra volta. Abbiamo in contatto ora un compagno di Reggio Calabria, del centro sociale Cartella, e quello che gli chiediamo subito, immediatamente, è magari di raccontarci un po' come si vive, fra virgolette, in quel di Reggio, e quali specificità ci sono rispetto magari alla situazione generale, che già, come avevamo evidenziato nella puntata precedente, anche sulla base di un rapporto come quello dello Svimez, che parla di una disoccupazione nel mezzogiorno che viaggia tra il 19,7% come dato ufficiale e il 30-31% come dato invece sommerso, una situazione anche che vede una fortissima emigrazione costante di migliaia e migliaia di persone che ogni anno continuano ad abbandonare le città del sud Italia per andare o al centro nord o addirittura all'estero, per cui magari partendo da questa base generale e conoscere e approfondire anche alcune specificità della città di Reggio Calabria. Ci senti? Sì, sì, buongiorno, un saluto a tutte e tutti. Diciamo che i dati Svimez che citavi prima non mentono, e quello che rappresentano riguardo la Calabria è una situazione drammatica. La Calabria è all'ultimo posto per quello che è la produzione di PIL pro capite. E all'interno della situazione regionale, purtroppo la città di Reggio primeggia in diverse classifiche, purtroppo dal punto di vista negativo. È una città che, vorrei ricordare, esce da 2 anni di commissariamento per contiguità mafiosa e detiene anche il triste primato di essere il primo capoluogo di provincia a subire questo percorso. È un commissariamento che ha salvato, diciamo, la classe politica reggina dal rischio della dichiarazione del dissesto finanziario per un buco nelle casse comunali di cui ancora oggi, a distanza di anni, non si riesce a capire, a conoscere la reale entità. E dico questo perché i commissari che hanno amministrato Reggio in questi anni hanno pensato solamente a ripianare i conti a discapito di quelle che erano le problematiche dei cittadini. Hanno approvato ad esempio un piano di rientro che prevede l'accensione di un prestito di 263 milioni di euro e che dovremmo ripagare in 30 anni pagando 106 milioni di euro di interessi in più. Sono state aumentate tutte le tariffe legate ai servizi pubblici. Reggio è la città d'Italia che paga la più alta tariffa sui rifiuti, nonostante le nostre strade siano piene di spazzatura. Paghiamo l'acqua ai massimi livelli con tariffe salatissime, nonostante dai nostri rubinetti esca acqua salata. Quindi non per niente nella classifica recente della qualità della vita redatta dal Sole 24 Ore Reggio Calabria è penultimo posto. Quindi diciamo una situazione abbastanza drammatica e di impoverimento purtroppo progressivo, di una crisi che si sente e si vede e si respira quotidianamente, alla quale la cittadinanza ha provato a dare una risposta dopo 10 anni di dominio di Peppe Scopelliti, che è stato prima sindaco di Reggio e poi governatore della Calabria. Oggi alle recenti sia elezioni comunali che regionali si è diciamo data la metà dei cittadini, perché l'altra metà non è andata a votare, si è optato per le amministrazioni di Tarca PD. Uno potrebbe pensare, tanto peggio di così non si potrebbe fare, però le premesse non ci rendono ottimisti in questo senso. Poi parlare del problema dell'emigrazione, purtroppo è un problema per noi atavico, cioè da sempre vediamo fratelli, amici, compagni vicini di casa costretti ad emigrare per lavoro. Prima Arturo nel suo intervento parlava giustamente di una fascia generazionale che manca, cioè o di rapporti con le persone anziane o di rapporti con i ragazzini, ben sapendo che quando hanno completato gli studi e dovranno andare all'università saranno i primi ad abbandonarti. Già la nostra situazione è comunque diversa dalla da quella che citava Arturo, quella che comunque è molto generale diciamo nella provincia, nei paesi soprattutto interni della Calabria. Nonostante questo, comunque è un problema che sentiamo sia dal punto di vista umano, che significa perdere amici, perdere fratelli, ma soprattutto anche dal punto di vista politico, che significa una perdita costante e progressiva di militanti, di attivisti, di quelle persone soprattutto che non si vogliono piegare, non vogliono sottostare alle dinamiche di una città che purtroppo offre ben poco, e quello che offre fa parte di un contesto dove spesso sono, diciamo, le consorterie a farle da padrone, le multinazionali, quando non l'andrangheta direttamente, quindi spesso è un problema rimanere, ecco. Senti, alcuni compagni siciliani la volta scorsa, analizzando questo problema dell'emigrazione, hanno fatto uscire un risvolto che possiamo considerare positivo nella tragicità della situazione, comunque. Cioè, rispetto all'attività politica di collettivi, centri sociali, organizzazioni antagoniste o anticapitaliste, spesso questa dinamica dell'emigrazione, che poi però porta anche magari a un ritorno a casa, magari dopo qualche anno di vita in altre città del paese o all'estero, e un ritorno che però magari porta anche con sé un bagaglio di esperienze, di conoscenza e di valorizzazione anche di politica di alcune situazioni di lotta che si sono vissute in altre città. Rispetto all'attività politica, se puoi anche quindi raccontarci un po' di questo, del centro sociale Cartella in città, come la vedi? Anche da voi si è verificato questo? Possiamo parlare quindi che magari di una dinamica generale dell'emigrazione o invece no, appunto? Ma guarda, sicuramente bisogna, nell'emigrazione generale, l'emigrazione dei compagni porta al fatto che di un impegno nelle realtà presenti nelle città dove si spostano, quindi questo sicuramente porta uno scambio sia durante l'emigrazione, penso ai compagni che stanno in tanti posti occupati in Italia, e quindi c'è un confronto su quello che sta succedendo, sulle varie dinamiche in atto, sia anche un supporto maggiore nei periodi o quando tornano per le vacanze, e quindi c'è questo impegno, diciamo, temporaneo, o nel caso in cui decidono di ritornare c'è sicuramente una crescita, un bagaglio culturale maggiore che viene aiuta, supporta la realtà cittadina. Per quanto riguarda il Cartello e le sue attività, noi come da quando, diciamo, abbiamo occupato il Cartella, ci siamo fondamentalmente impegnati su quelle battaglie cosiddette ambientalistiche, quella che ci ha tenuto impegnati per il maggior tempo è stata quella contro il ponte sullo Stretto, e possiamo dire anche che il nostro spazio ha dato un notevole impulso allo sviluppo della mobilitazione contro il ponte, ma oltre al ponte l'acqua, i rifiuti, i tossici e anche non, diciamo, tutto le centrali, le bonifiche di una regione drammaticamente inquinata, una regione che ancora oggi terra di conquista per le multinazionali, spesso in combutta con l'ndrangheta la politica compiacente. Purtroppo questo lavoro negli anni ci ha portato sia ad avere attenzione, a smuovere un poco l'opinione pubblica, sia a subire diversi attentati, diverse intimidazioni. Purtroppo dal maggio del 2012 il nostro spazio è stato, dopo essere stato praticamente distrutto da un incendio che dietro delle svastiche, comunque dal nostro punto di vista, nascondeva una mano mafiosa, negli ultimi anni noi siamo stati impegnati alla ricostruzione la ricostruzione di una struttura che non abbiamo voluto abbandonare, nonostante sia il sequestro prima che comunque le difficoltà di costruire senza permessi, senza concessioni, senza una ditta poterci dare la mano. Oggi possiamo dire anche con una punta di orgoglio che finalmente la struttura del castello è stata ricostruita grazie anche e soprattutto agli aiuti che da tutta Italia, sia dal punto di vista economico ma anche fisico, da compagni che sono proprio venuti scesi giù a darci una mano per lavori vari, possiamo dire finalmente dopo anni di avere finalmente di nuovo un tetto, e questo grazie anche al quartiere, perché fino agli anni noi ci siamo, ripeto, occupati di battaglie forse poco legate alle problematiche del quartiere, però ci hanno comunque permesso di avere una stima, una credibilità da parte loro, e dopo quello che ci è successo, quello che ci ha particolarmente colpito è stato proprio la mano di aiuto che ci è venuta dagli abitanti del nostro quartiere, e che oggi ci hanno permesso anche di poter avviare delle attività, penso agli orti collettivi per dirne una, dove abbiamo ripreso delle parti del parco. Noi abbiamo occupato una struttura all'interno di un parco pubblico e alcune zone del parco le abbiamo trasformate in orti anche grazie all'aiuto di alcuni vicini. Quindi ecco, questo tipo di dinamiche sono quelle che abbiamo lavorato e che ci danno speranza di continuare questo tipo di lavoro. Senti, tu parlavi, vi siete mossi negli ultimi anni, a parte chiaramente questo lavoro faticoso di ricostruzione del centro sociale, che assolutamente rende onore a tutti voi, a tutti e tutte voi, ma anche e soprattutto rende onore alla solidarietà di compagni e compagne da tutta Italia. Comunque vi siete mossi sull'ambito di lotte legate all'ambiente, quindi alla devastazione ambientale. Quello che volevo chiederti è soprattutto magari sulla mobilitazione contro il ponte sullo Stretto, ma magari anche in altre lotte e mobilitazioni, qual è stato il grado di collaborazione, coordinamento con altre realtà, ad esempio sul ponte penso anche a realtà della città di Messina, quindi di un'altra regione, e come, cioè, è stato facile, ci si è incontrati subito nel coordinamento, si è condivisa subito una base comune di mobilitazione e di lotta? Devo dire di sì. Devo dire, noi con le realtà messinesi da subito. Poi chiaramente stiamo parlando di il movimento No Ponte, più che altro, soprattutto nella sua fase iniziale, è stato un coordinamento di realtà. Quindi un po' le difficoltà più che territoriali erano legate alla natura politica delle varie realtà che componevano il coordinamento. Dal punto di vista territoriale invece c'è sempre stata una, e tuttora continua ad esserci, una grandissima collaborazione e un dialogo costante. Va bene, senti, ti vai ad aggiungere qualcosa che sia o sui temi che già abbiamo affrontato con te e con altri compagni, ma anche magari su altre situazioni sia nella regione Calabria sia a livello generale, prima di magari di salutarci? Credo di no, anche perché già per quello che riguarda la provincia Regina, tra il mio intervento e quello di Arturo penso sia stata abbastanza rappresentata, quindi niente, vi ringrazio di questa opportunità e saluto tutti e tutti. Noi ringraziamo te, prima di salutarci e avvisiamo, magari ti informiamo a te come a tutti gli altri compagni e compagne che interverranno, che chiaramente qualora ci sia la necessità o la volontà anche solo di comunicare mobilitazioni, lotte che si portano avanti nella propria città, i microfoni di Radio Onda Rossa sono assolutamente aperti, per cui appunto teniamoci in contatto, a parte questa purtroppo breve descrizione della vostra situazione in città, però ha già dato alcuni spunti di conoscenza sulla vostra situazione. Grazie di nuovo. Ciao, buona giornata. Ciao.

studenti universitari che o hanno finito il corso di studi e permangono sul territorio, chiaramente con un lavoro precario, oppure stanno continuando questo tipo di, stanno continuando ancora la loro formazione. Questa composizione sociale è nuova, non è autoctona di questo territorio. Molto spesso gli studenti che insistono sono chiaramente dei fuorisede che vengono a Cosenza da tutta quanta la regione per poter fare l'università, è finito il percorso di studi, vuoi perché le possibilità lavorative anche di emigrazione sono ridotte, perché la crisi è generale e generalizzata in tutta Italia e in molta parte d'Europa, e vuoi perché comunque non c'è voglia di poter di rientrare nel nucleo familiare, continuano a permanere su questo territorio. Questo tipo di composizione sociale a lungo andare ha sedimentato nuove energie e nuove soggettività intorno a questo territorio, che hanno prodotto l'occupazione di questo spazio. Quindi questo qui un pochettino per presentare lo spazio e nello stesso tempo raccontare quella di che è appunto la composizione sociale che abbiamo di fronte, un precariato fortemente giovanile, estremamente scolarizzato, con delle prospettive di futuro totalmente bloccate, che vede come unico sbocco quello lì della lotta e della riappropriazione. In questo momento declinata rispetto alla riappropriazione di tempi e di socialità, in futuro quello che si prevede di fare è una declinazione della stessa anche dal punto di vista abitativo. Anche le occupazioni abitative sul territorio non sono nuove, il coordinamento di lotta per la casa di Cosenza ha prodotto tutta quanta una serie di occupazioni durante l'anno scorso e gli anni precedenti che stanno tuttora continuando. Dal punto di vista macroeconomico, quello del territorio, diciamo, la peculiarità principale, ecco, che si può individuare è l'insistenza e la permanenza di un numero enorme di call center e di operatori che lavorano all'interno dei call center stessi. Questo perché, come dicevo prima, la composizione del territorio di Cosenza fa sì che ci sia un alto livello di scolarizzazione di persone con un alto livello di scolarizzazione che stanno su questo territorio, con una capacità, con capacità dialettiche molto forti, relazionali molto forti, quindi la forza lavoro idonea per lavorare all'interno dei call center. Chiaramente le multinazionali dalla parola questa cosa l'hanno capita in maniera abbastanza veloce e forte, e hanno iniziato ad insediare intorno al territorio cosentino tutta quanta una serie di call center che si portano dietro chiaramente tutti i problemi di precarietà lavorativa, ricattabilità che conosciamo benissimo e che non sono differenti da quelli che si vivono nel resto d'Italia. Diciamo che per un'analisi che abbiamo fatto noi come altri compagni, l'industria, l'indotto che gira intorno ai call center nella regione Calabria è la terza fonte di reddito, la terza fonte di impiego per tutta quanta la regione. Scusate. È un lavoro chiaramente saltuario, è totalmente precario, è un lavoro con un livello di ricattabilità molto alta ed è anche un territorio di conflitto che noi come spazio sociale stiamo cercando di agire. Più che per una questione di analisi, è anche per una questione di analisi e per una questione ideologica, anche perché la componente sociale che vive lo spazio o lavora all'interno dei call center inevitabilmente, quindi va a cercare di riprodurre meccanismi di carattere conflittuale all'interno degli stessi. Le analisi che sono state fatte, sì, sono più o meno le stesse, cioè parliamo di una regione con il tasso di disoccupazione giovanile e il tasso di disoccupazione giovanile più alto d'Europa e il PIL pro capite più basso. È chiaramente una regione che favorisce in maniera forte la migrazione, dettata principalmente dal bisogno di lavoro, ed è una regione in cui gli sbocchi lavorativi per un determinato settore giovanile sono pressoché nulli. In questo momento però si sta producendo, diciamo, uno spartiacque rispetto al passato, perché mentre prima anche tramite meccanismi più o meno clientelari, più o meno loschi, si riusciva ad avere dei posti all'interno del pubblico impiego, che è stata quella lì una delle principali fonti di reddito e di inserimento lavorativo per molti calabresi, la prima azienda per numero di impiegati della Calabria è proprio la Regione Calabria in quanto tale. Anche quel settore lì in questo momento si sta chiudendo, anche quella possibilità lì di acquisire un reddito, sai, si sta chiudendo, e quindi le situazioni si stanno inasprendo sicuramente più del passato. Questo dato è riscontrabile anche, a mio avviso, in quello che è stato il risultato elettorale dell'ultima tornata. Fondamentalmente ha votato il 35%, cioè le percentuali non differiscono molto dalle percentuali dei votanti in Emilia-Romagna. I partiti, i carrozzoni politici, il PD calabrese è uno dei PD più corrotti d'Italia, attraversato da vari scandali, da Why Not in poi, con una classe dirigente assolutamente incapace di poter governare la regione, diciamo, anche questi carrozzoni politici non sono riusciti, tramite i meccanismi clientelari legati quasi sempre e esclusivamente alla possibilità di poter avere un posto di lavoro, un reddito o qualche forma di assistenza, anche questo qui è saltato, perché col taglio dal welfare i finanziamenti sono venuti meno, la possibilità di creare clientela è venuta meno a sua volta, e da questo qui è scaturito il fatto che molti calabresi che prima andavano a votare anche per meccanismi clientelari non si sono recati alle urne, consegnando la regione in mano a Mario Oliverio, che è il governatore che sta andando a governare la regione Calabria con il 35%, quindi con nessun tipo di legittimità popolare, sociale, democratica, anche tra una mera rappresentanza democratica borghese. Beh, ecco, sì, scusami se ti interrompo, sì, di sicuro questo è un dato fondamentale, cioè la percentuale dei votanti, di fatto si può dire che ha vinto il non voto con una maggioranza assoluta, è molto importante per comprendere che cosa sia quelle che sono state le politiche e, come dicevi te, anche la corruzione della politica istituzionale nella regione Calabria, ma anche quelle che sono state le decisioni prese sia dai partiti che dai vari governanti. Io credo che comunque ci sia anche un riflesso non solo su cosa si è messo in campo nella regione, ma anche a livello nazionale su cosa la politica istituzionale stia decidendo. E tra l'altro volevo anche puntualizzare una cosa molto importante che hai detto prima, cioè la messa in relazione della crisi con la pubblica amministrazione e con eventualmente anche l'attività, possiamo dire, la capacità di crescita di organizzazioni di stampo mafiosa, per cui non c'è una correlazione fra l'aumento della crisi e l'entrata magari delle organizzazioni criminali e diciamo la crescita a livello territoriale, chiaramente nel momento in cui vengono tagliati quasi del tutto i finanziamenti alla pubblica amministrazione, comunque finanziamenti anche investimenti banalmente per le imprese, per il turismo, per l'agricoltura, per qualsiasi cosa, non è poi necessariamente detto che ci sia una crescita delle organizzazioni criminali. In questo io volevo farti magari due domande in una. Una prima appunto su questo, se ci sono delle differenze, qual è la situazione a Cosenza, a Rende, dal punto di vista di presenza, pregnanza della criminalità, soprattutto rispetto alla vostra attività politica, e qual è, hai descritto un quadro abbastanza largo di progettualità politica su quale siete impegnati su vari fronti, la lotta per la casa, diciamo nella città di Cosenza, la lotta per la casa e la lotta nei call center, quindi lotta dei lavoratori e lavoratrici precari, ma anche suppongo all'università. La lotta universitaria, sì, esatto. Sì, indubbiamente. Ecco, qual è la risposta in città rispetto alle energie che mettete in campo? C'è una risposta effettiva positiva di quello che voi andate a proporre, cioè di cui parlate, quindi suppongo anche conflitto e lotta? Guarda, allora rispondo prima a quello che dicevi tu. Non c'è una correlazione diretta chiaramente tra l'ingresso, cioè con l'avanzata della crisi, e l'ingresso di organizzazioni di stampo criminale all'interno delle istituzioni. Anzi, paradossalmente è il contrario: siccome i soldi sono meno, c'è meno interesse nel poter contaminare. Poi pure questa parola è una parola, diciamo, molto da media mainstream, cioè non credo, i meccanismi di potere in realtà sono molto più complessi che una semplice contaminazione, in realtà sono più ampi, sono dei veri e propri meccanismi di legame con vari livelli di settori neri, grigi e pochissimo capitalismo bianco in Calabria. Comunque dicevo, sicuramente c'è un disinteresse da parte dell'organizzazione nell'infiltrare le istituzioni nel momento in cui le istituzioni manovrano meno soldi. Per quanto riguarda la questione del territorio cosentino, ecco, quello che spesso viene definita come 'ndrangheta, innanzitutto bisognerebbe declinarle al plurale, perché le forme sono diverse le forme, soprattutto per quanto riguarda diciamo la parte nord della Calabria. Quindi la provincia di Cosenza non ha assolutamente le stesse forme che hanno le 'ndrine del Vibonese o del Reggino o dello Ionio, del Basso Ionio Catanzarese o Reggino, appunto. Non è quella lì la forma, è una forma molto più simile alla forma camorristica. Non ci sono delle famiglie reggenti sui territori per quanto riguarda la provincia di Cosenza, o meglio, sono meno strutturate sono meno strutturate intorno al legame di sangue, piuttosto quello che avviene, cioè, rispetto a quello che avviene sui territori del Vibonese o del Reggino. Ecco, il dato elettorale va letto anche come un meccanismo di crisi del potere stesso, cioè i meccanismi di governance che il potere attuava non erano semplicemente meccanismi di governance coercitivi, che sono quelli più facili e più immediati che riusciamo a percepire, ma c'erano anche questi meccanismi di clientela. Venendo meno la possibilità di produrre anche questo meccanismo di clientela, è venuta meno la legittimazione nel chiedere il voto. Per di più c'è pure un'altra questione da analizzare, non so se è stata detta prima, credo di no, però il presidente uscente della regione Calabria, Scopelliti, è stato condannato a 6 anni per concorso esterno in associazione mafiosa, in un processo che è un processo estremamente interessante da andare a leggere, e con tinte noir, perché quella lì che era la segretaria di Scopelliti al comune, Scopelliti era stato prima sindaco di Reggio Calabria, della città di Reggio Calabria, ha manovrato molti soldi, ha fatto dichiarare Reggio Calabria città metropolitana, tramite quella ha avuto numerosi finanziamenti. Quella che era la segretaria, diciamo, speciale di Scopelliti, la Faralla, si è suicidata, è stata trovata suicidata il giorno prima di andare a deporre in tribunale, dopo che aveva fatto le dichiarazioni in base alle quali sarebbe andato in tribunale e avrebbe buttato fuori tutto quanto quello che era a sua conoscenza intorno ai meccanismi che si muovevano sul comune di Reggio Calabria. Anche questo qui ha contribuito ulteriormente a una totale delegittimazione nel senso comune delle persone rispetto alla Regione Calabria in quanto istituzione. Questo qui come quadro più ampio. La risposta rispetto alle lotte che stiamo producendo sul territorio è ottima ed è, diciamo, variegata, e si differenzia a seconda del tipo di lotta che si va a produrre rispetto alla composizione sociale che ci sta dentro. Per quanto riguarda la lotta per le case, si ha sicuramente una composizione sociale più meticcia, con degli strati più proletari che non erano ceto medio prima della crisi e che adesso sono, se possibile, ancora più proletarizzati nel sistema crisi, nell'orizzonte crisi. All'interno di quel meccanismo lì, il diritto all'abitare, la rivendicazione anche da questo punto di reddito acquisito tramite il non dover pagare un affitto o un mutuo, va a ricomporre settori che sono più classicamente intesi come settori proletari, sia italiani che migranti. Per quella lì che è l'esperienza nostra, invece, calcolate che è un'esperienza estremamente nuova. Il centro sociale è stato occupato un anno e mezzo fa su commenda. Noi veniamo da un'esperienza di conflitto all'interno dell'università, poi, finito il percorso di studio, molti di noi sono rimasti su questo territorio e hanno deciso di aprire questo nuovo fronte di lotta e di conflitto. Quello lì che stiamo vedendo è che soggetti che prima non immaginavi che potessero girare all'interno di un centro sociale, quindi ceto medio, anche ceto medio, diciamo, impiegatizio o commercianti o piccole partite IVA, iniziano a frequentare frequentare questi spazi spinti dai morsi della crisi, spinti dal fatto che comunque tu offri sia un livello di servizi e una socialità a costi più bassi, sia per il fatto che vengono attratti dal meccanismo stesso di produzione dell'autogestione, cioè si produce quel meccanismo per il quale ceti che storicamente hanno sempre delegato a forme partitiche, più di destra, più di centrodestra, più di centrosinistra, l'agire politico, stanno iniziando a rompere questo meccanismo di delega e iniziano a partecipare, ad interessarsi della cosa pubblica, del bene comune, declinato in un altro modo, all'interno di questi spazi qui. Da questo punto di vista più interessante è anche il lavoro e la capacità di attrattiva che hanno questi spazi nei confronti di settori come quello lì del call center, che fino a pochissimo tempo fa erano stati totalmente non attraversati dalle lotte, ma non attraversati non solo dalle lotte e dal conflitto, per come lo intendono le soggettività antagoniste o di movimento, non attraversate neanche da minime lotte di carattere sindacale. In questo momento c'è anche lì quello che registriamo è una forma di rifiuto, se vogliamo, embrionale, ma comunque di rifiuto della delega, anche dal punto di vista meramente o squisitamente sindacale, è un andare verso una questione di ricomposizione. Chiaramente il tutto è giocato, secondo noi, molto anche da un dato di carattere anagrafico. All'interno dei call center c'è un gruppo di precari, di persone che hanno un'età media molto bassa. Il sindacato strutturato, confederale, ma anche il sindacato di base, sotto alcuni aspetti, non ha le capacità relazionali per poter entrare a contatto, poter sentire le istanze, gli stimoli dalla pancia che vengono da questo nuovo tipo di componentistica. Né loro sono abituati a delle forme sindacali classiche, ed è come se stessero riproducendo un meccanismo aggregativo che magari abbiamo visto prima nel secolo precedente, prima della stessa strutturazione dei sindacati. Stanno ricostruendo dal basso le loro vertenze, le loro istanze, e stanno cercando, ecco, all'interno dei call center, questo è molto importante, stanno cercando, diciamo, di spaccare, di rompere la paura, perché lì è un meccanismo il meccanismo di controllo è basato molto sulla paura, sul ricatto del TL, del team leader, e sulla possibilità di essere velocemente sbattuti fuori e reintegrati, perché la domanda di ingresso nei call center è altissima e tu sei solamente un numero. In questo momento stanno cercando di spaccare questo meccanismo di paura qui. Chiaramente da questo punto di vista l'attuazione del Job Act rappresenterebbe un'ulteriore iniezione di paura all'interno dei call center e una possibile forma di calmierizzazione di queste prime forme di auto-organizzazione. Certo, senti, hai descritto una situazione molto interessante per la città di Cosenza, e non solo, una città quindi che vive di lotte che vanno su più fronti e più campi. Io magari prima di salutarci vorrei farti questa domanda. L'altra volta un compagno del collettivo Aleph di Catania parlava di una possibilità, di un tentativo di un'assemblea, e quindi provare a mettere in relazione varie città e varie collettivi e centri sociali del sud Italia, magari per la prossima primavera. Ora, senza per forza rispondere su quella possibilità, però quanto considerate necessario mettere in relazione i vari collettivi che agiscono sia in una stessa regione che in una situazione molto, diciamo, che ha molte similitudini in varie regioni del sud Italia, e se c'è un tentativo di andare in questa direzione, quindi di provare ad affrontare le lotte di cui tu parli, ma di cui hanno già parlato altri compagni, e magari cercare anche di organizzarle insieme e di dargli un fronte un po' più ampio. Guarda, allora, da questo punto di vista io non so a cosa si riferiva il compagno di Catania, spero che sia un'operazione buona, e sicuramente l'intento è ottimo. Per quanto riguarda questo piano specifico di messa in relazione delle lotte, dei comitati territoriali, degli spazi sociali che stanno all'interno del territorio meridionale, noi abbiamo agito questo piano tramite l'esperienza di Orizzonti Meridiani, che è praticamente, diciamo, una rete con tutti tutta quanta una serie di spazi sociali e di comitati territoriali che si occupano del conflitto più in generale inteso su vari ambiti, da quello ambientale fino ad arrivare al conflitto sul mondo del lavoro, le occupazioni delle case, intorno al territorio meridionale, in cui ci sono compagni di Caserta, palermitani, piuttosto che noi come cosentini. All'interno di questo tipo di situazione è nata l'esperienza di un libro che si chiama appunto Briganti o Migranti, sull'esperienza di Orizzonti Meridiani, sulla scorta che inizia un pochettino anche a destrutturare quello lì che è la narrazione che si fa del meridione, affrontando anche delle tematiche, riprendendo delle tematiche degli studi subalterni postcoloniali, perché anche questo tipo di forma di discussione ci permette di poter andare ad agire meglio un piano del conflitto che sicuramente ha delle peculiarità rispetto a quello lì che è il piano del conflitto nel resto d'Italia. Ha delle peculiarità perché qui ci sono stati dei rimossi storici durante l'unificazione della nazione Italia, chiaramente non declinato secondo un secessionismo sudista, che è un percorso che non interessa a nessuno da questo punto di vista, però ci sono delle peculiarità territoriali che non trovi in Val d'Aosta piuttosto che in Piemonte, dettate sia dalla strutturazione del potere sui territori, cioè su come si va a conformare, a gestire e a prodursi e a riprodursi il potere e il sistema sui vari territori, sia come le soggettività militanti si interfacciano a questo tipo di potere. Chiaramente ogni territorio ha una sua peculiarità, una messa in rete da questo punto di vista è fondamentale che anche questa messa in rete si doti di una cassetta degli attrezzi che possa destrutturare un discorso anche colonizzatore che è stato fatto del meridione. Ecco, forse quello lì che non siamo riusciti a fare in questa puntata è dipingere i lati positivi e di conflitto rispetto ai lati negativi che ci sono sul territorio, in questo caso calabrese, perché sennò si rischia di ricadere in un'autonarrazione sottosviluppista che fino adesso ha prodotto soltanto danni. Però credo che sia il tuo intervento che anche quelli prima abbiano giustamente analizzato delle problematiche che io mi permetto di dire anche molto più pregnanti rispetto alla situazione del centro-nord, appunto per le peculiarità di cui tu parlavi. Però chiaramente a me sembra che i vostri interventi non si siano limitati all'autoflagellazione, ma abbiano messo in campo appunto delle proposte di mobilitazione e di lotta proprio per aggredire la situazione attuale e per emancipare, diciamo, il Mezzogiorno dalla situazione in cui versa, non da oggi, e soprattutto dire con forza anche un'altra questione, che è quella lì: mentre la governance di questi territori dal 1861 per tutti quanti, per diciamo la prima metà del Novecento, diciamo, è stata fatta a mano militari, cioè il governo piemontese è proprio occupato militarmente alcune zone della Calabria, della Basilicata, con l'insorgenza e briganti e via dicendo, però forse lì andiamo troppo indietro. Nella modernità la governance è stata garantita tramite i famosi fondi che vivono di quella narrazione che anche molti meridionali fanno della propria terra sottosviluppata, e quindi sono arrivati questi fondi a pioggia. Negli anni 70, in pieno fordismo, taylorismo italiano, il totem era quello lì dell'industria. I fondi arrivavano sull'industria, sul polo siderurgico di Gioia Tauro, piuttosto che sulla pertusola di Crotone. Cosa hanno lasciato quel tipo di investimenti e quel tipo di declinazione eterodiretta del territorio? Hanno lasciato fondamentalmente un inquinamento mostruoso e nessuna ricaduta dal punto di vista occupazionale. Adesso, nel 2000, abbiamo i fondi della 488, gli ultimi scandali che sono scoppiati intorno ai fondi della 488, che hanno buttato centinaia di milioni in euro sulla regione Calabria. Di questi centinaia di milioni in euro, questi imprenditori che hanno creato queste famose fabbriche, che poi in realtà molto spesso non esistevano nemmeno fisicamente, cioè non erano nemmeno state messe in produzione, sono spariti. Nessuna di quelle fabbriche ha garantito un minimo un minimo di inserimento di possibilità lavorativa, ed è andata via, cioè è solo servito a fomentare, a foraggiare quello lì che era il meccanismo clientelare. Rompere quell'autonarrazione a dire siamo noi che in questo momento decidiamo su come investire e su che tipo di sviluppo vogliamo produrre da questo territorio, e quindi questo è un insegnamento estremamente importante che danno gli studi postcoloniali, cioè lo sviluppo, spesso il colonizzatore ti declina lo sviluppo, cioè si autonarra come portatore di sviluppo. La risposta alla resistenza dei territori nel dire no, lo sviluppo lo decidiamo noi in che direzione deve andare, è un argomento sul quale c'è la possibilità di creare delle forme di rete molto forte sul meridione. E questo mi sembra molto importante per poter prendere coscienza e passare da una condizione di subordinata, quindi di subordinazione, a una invece condizione di una persona che vuole emanciparsi e riconquistare non solo il proprio futuro ma anche il proprio presente. Io direi che con questo possiamo ringraziarti e salutarti. Hai fatto una descrizione molto precisa, puntuale. Purtroppo il tempo è tiranno in questo e non possiamo approfondire alcune delle cose che hai tirato fuori, che magari sarebbe il caso, però appunto questa è una trasmissione tutta in divenire, magari in un futuro purtroppo non troppo prossimo potremo anche andare ad indagare alcune di queste questioni. Noi ti ringraziamo e ti salutiamo, e dovremmo avere un altro collegamento, per cui cioè prima uno stacco musicale e poi appunto la conclusione di questa puntata. Ringrazio a tutti, buona giornata. Ciao, buona giornata a te. Ciao. Signori, a tutti i figli tuoi Anna tornare, lo sanno che tu sei malata i cuori, lo sanno che così non puoi campari. Calabria mia, i meglio figli sentiro fora, per far fortuna cacatino peri, e tu restassi in dasti quattro mura. Calabria mia, allora un piccolo stacchetto musicale con un minoretano giusto per aggiungere un po' di trash a questa trasmissione, e abbiamo l'ultimo collegamento di questa puntata, un compagno del centro sociale Rialzo, sempre della città di Cosenza, e ti salutiamo, benvenuto ai microfoni di Radio Onda Rossa, e ti chiediamo se hai ascoltato quello che dicevano i compagni prima e se condividi l'analisi sia della città di Cosenza che della vostra regione, quindi della Calabria, e magari possiamo anche entrare direttamente nello specifico di qual è la progettualità politica che come centro sociale portate avanti in città. Sì, noi insomma il Rialzo è uno spazio sociale occupato ormai nel 2007 in una zona della città con altissima densità di speculazione edilizia, perché viene occupato in un luogo che dal 2000 con la nuova ondata del cemento diventava la nuova zona della speculazione targata Mancini, dal sindaco Mancini. Si occupò nel 2007 questo spazio, che praticamente era l'unica parte rimasta tra virgolette vergine dai palazzi, perché c'erano i cosiddetti officine delle ferrovie della Calabria. Da lì insomma come dire, centrale è stata sempre la questione, che poi è un po' centrale come questione di accumulazione del capitale sulla nostra città, che è un po' la rendita, la questione della speculazione, nel senso che comunque Cosenza, rispetto anche ad altre città, ad altre zone del sud, vive una presenza di palazzi e di costruzioni che è, come dire, molto più grosso di quello che potrebbe essere, di quello che è il fabbisogno che c'è in tutta l'area urbana. Parliamo di oltre 10.000 stanze vuote, parliamo di oltre 500 palazzi vacanti. Tutto questo perché, come dire, su Cosenza, non essendoci, tra virgolette, il cosiddetto polo industriale, non essendoci quella che era un po' la fabbrica o quant'altro, è diventata un luogo della rendita, luogo della speculazione da parte dei palazzinari. E su questo, diciamo, poi negli anni abbiamo sviluppato quella che è la lotta per la casa, nel senso che già nel 2006-2007 c'era stato un momento nel quale, diciamo, si occupò nel centro storico uno dei palazzi che era stato ristrutturato per poi darlo all'università, venne occupato da famiglie italiane. Poi da lì, insomma, si sviluppò negli anni il movimento di lotta per la casa, che oggi poi vede una serie di occupazioni fra il centro storico e la città nuova. Un movimento, questo qui, della casa, che, come dire, soprattutto poi nell'ultimo anno ha dato grande risposta anche da un punto di vista di quella che è la composizione, da un punto di vista di quella che è stata anche la forza che è riuscita a dispiegare rispetto a tutta quella che è la questione del diritto all'abitare in questa città, che, come dire, ha vissuto di clientelismo, ha vissuto di assistenzialismo. Voi se immaginate che negli anni 70 le prime assegnazioni di case popolari vennero fatte proprio nei quartieri nuovi, cioè via Popilia e quant'altro, a mano vennero date le chiavi da parte dell'assessore alla casa a ogni persona, come per flagellare una sorta di accordo che se quella casa ti veniva data era perché te la stava dando lui, e quindi dovevi rimanere, come dire, legato a lui in vita naturale durante. Effettivamente questo qua, Gentile, che poi è un po' il fratello di quello che ha fatto chiudere o ha bloccato le rotative di Calabria, ora è ancora in piedi perché è stato rieletto nell'NCD nelle ultime tornate regionali. Questo per dire che sono anni che le regolatorie sono bloccate, per dire che non c'è una legge regionale che non guarda assolutamente alle nuove povertà, diciamo, le nuove fasce, diciamo, sì, purtroppo per la crisi si affacciano a quello che è il problema degli affitti. Intorno al movimento della lotta per la casa, naturalmente, poi sono sviluppate tutta una serie di cose, cioè immaginiamo tutta quella che è stata anche l'emergenza Nord Africa, che ha attraversato anch'essa la lotta per la casa, perché finito, diciamo, il periodo dei centri, che nella provincia di Cosenza ce n'erano abbastanza, sono arrivati tutti in città i migranti che, diciamo, stavano in quei centri, cercando di capire quale poteva essere poi una possibile soluzione alla loro vita. La maggior parte di loro hanno intrapreso quella che è la lotta per la casa, hanno intrapreso percorsi di auto-organizzazione, cioè dal 2012 siamo riusciti anche qua, cosa che non c'era, a far istituire le vie per la via dell'accoglienza, non l'abbiamo chiamata, ma è la via senza fissa dimora, per far sì che si potesse rinnovare il permesso di soggiorno senza passare dai canali dell'illegalità che ci stavano dietro le richieste di domicilio e di residenza, perché voi immaginate che dietro la dichiarazione di ospitalità, che è una cosa del tutto gratuita, qua girano 200-300 euro a migranti. Quindi immaginate il business che si costruiva, il business che hanno costruito negli anni con l'aggiunta scoperlita, soprattutto nell'anno del 2011, quindi dell'emergenza Nord Africa, quando questi centri, diciamo, fruttavano 40 euro al giorno a migrante. Quindi questo per dire che ci sta una composizione variegata, ci sono una serie di contraddizioni sul territorio che si muovono e che dalla casa, passando per altri momenti di auto-organizzazione, di autonomia, si stanno piano piano si stanno dando. Tutto questo però all'interno di una città e di una regione che comunque vive una crisi problematica, no? una disoccupazione molto alta, che come dire, come calabresi fondamentalmente noi a queste crisi ci siamo abituati, cioè nel senso che se tu stai nei quartieri popolari, conosci la gente che sta nei quartieri popolari, vedi che come dire trova gli escamotaggi giusti per riuscire a sopravvivere. Quindi da qui parte il fatto che si pirata la luce, si pirata l'acqua, si pirata il gas, non si pagano le assicurazioni delle macchine, cioè sono fenomeni che da noi sono ormai come dire consolidati, nei quartieri popolari sono questioni consolidate, perché sono purtroppo per fortuna come dire gli unici modi per riuscire ad andare avanti. Sono una necessità, come diciamo. Come? Sono una necessità di fatto per tirare avanti. Certo, come è sviluppata la questione dell'extralegalità, nel senso che è evidente che da noi, per esempio, non essendoci grandi poli industriali o quant'altro, il grosso del lavoro si sviluppava intorno al terziario oppure intorno alle cooperative sociali. Cioè, tu immagini che un operatore delle cooperative sociali percepisce 500-600 euro al mese, se non aggiunge a questo l'extra legalità non riesce a portare la pagnotta a casa. Quindi da questo punto di vista si sviluppano tutta una serie di cose che come dire andrebbero indagate, andrebbero fatte uscire fuori, riuscire a far uscire un protagonismo che un po' manca, no? Tra virgolette, in quello. Senti, che è un sud che nonostante ci siano tante insorgenze, tanti movimenti, però comunque ancora un po' manca di un'uscita di protagonismo che servirebbe, seppur come dire noi paghiamo come dire la cassa del mezzogiorno, paghiamo un assistenzialismo che ha fatto da padrona sulle nostre vite, nonostante diciamo il dato elettorale che c'è stato diciamo negli ultimi giorni, che parla di un abbassamento della partecipazione al voto, questo però non vuol dire che ci sia una consapevolezza e una coscienza di essere pronti a ribaltare quella che è la situazione attuale in Calabria. C'è fondamentalmente una disaffezione alla politica, che non è solamente una disaffezione alla politica diciamo rappresentativa, ma è una disaffezione proprio a occuparsi di quella che è la propria esistenza. Quindi da questo punto di vista i soliti continuano ad andare avanti, perché nonostante ci sia stata a bassa affluenza, comunque i soliti nomi della nostra politica continuano a governare. Parlavo prima di Gentile, governerà Oliverio, che diciamo era l'unica figura spendibile da parte del PD in queste ultime elezioni, governeranno i soliti consiglieri regionali o ex assessori che hanno gestito la nostra regione e le nostre città da anni. Senti, sulla lotta per la casa, volevo approfondire un attimo sulla lotta per la casa, perché a me sembra, correggimi se sbaglio, che Cosenza sia una delle poche città al sud in cui si organizza già da un po' di tempo una dinamica di lotta per la casa, quindi di riappropriazione diretta di un bisogno, di una necessità. Non so dire, valutare quali siano le cause per cui al sud è meno diffusa questa pratica dell'occupazione, chiaramente fatta in maniera collettiva e con un'accezione politica. Probabilmente due spunti di analisi possono essere in parte la paura comunque a praticare, a scendere sulla pratica della riappropriazione, per cui è per forza di cose illegale agli occhi dello Stato, ma anche magari una mentalità basata su una cultura anche magari della volontà di emancipazione da parte di migliaia e migliaia di persone comprando, acquistando la casa, per cui molto spesso al sud, lo posso dire perché io l'ho sentito con le mie orecchie, viene risposto per quale motivo io che lavoro devo pagare l'affitto, devo pagare il mutuo e qualcuno è legittimato ad occupare casa. E su questo, sulla lotta per la casa nella città di Cosenza, magari anche gli sviluppi che ci possono essere stati negli ultimi mesi, al di là dell'occupazione delle case, magari rispetto all'articolo 5 del decreto Lupi o rispetto alla svendita del patrimonio immobiliare, qual è la situazione? Cioè, siete riusciti a mettere in campo iniziative, oppure magari anche proprio ce n'è stata la necessità, perché magari sulle case popolari non per forza di cose è esteso a tutto l'ambito nazionale la svendita delle case popolari, se quindi state mettendo qualcosa in campo, e invece su un ambito più generale se la lotta per la casa, come magari una città come Roma, è riuscita a essere anche ha avuto una funzione di catalizzatrice di varie istanze anche differenti di lotta nella città. Sì, allora, cioè, ti rispondo dall'ultima, così poi vado sul detto. Nel senso, sì, sicuramente la lotta per la casa ha avuto la capacità di aggregare, no, una composizione o più soggetti, diciamo, che differentemente magari non si sarebbero uniti, nel senso che se tu immagini che per esempio le nostre ultime occupazioni, se a Roma, diciamo, voi conoscete che quelle che le occupazioni sono, cioè nel senso meticce e quant'altro, noi le prime occupazioni meticce abbiamo fatto nell'ultimo anno, nel senso che prima era impensabile che immigrati italiani si potevano unire e fare una roba del genere, invece quest'anno, nell'anno diciamo passato, si è costruita questa dinamica che è stata poi dirompente, nel senso che ha costruito una forza enorme ed è riuscita ad espandersi, nel senso che riesce a costruire riproduzione, riesce a costruire nuovo immaginario. Insomma, da questo punto di vista è sicuramente positiva, anche perché poi dagli sportelli che tu fai, da lì si allarga la prospettiva a tutta una serie di altre questioni che ti si aprono dalla lotta per la casa, perché partendo proprio dalla casa poi si comincia a sviluppare un rapporto che riguarda quindi i servizi in generale, che riguarda il lavoro, quindi riguarda il reddito, quindi da lì puoi aprire delle prospettive di auto-organizzazione di conflitto che possono, diciamo, diventare importanti e possono intaccare nella politica nostra. Poi da questo punto di vista sulle case popolari, allora partiamo dal presupposto che al sud c'è una dinamica di occupazione che va al di là di quelle collettive, nel senso che negli anni noi abbiamo vissuto questa fatto dell'occupazione selvaggia, nel senso che ognuno trovava una casa vuota e ci metteva dentro, o meglio ci poteva essere anche l'ottica tra virgolette del racket, dove praticamente tu andavi all'Aderp e ti dicevano vai là a rompere quella casa e poi te la sistemiamo noi la pratica e te la facciamo assegnare. Cioè, questa dinamica, come dire, è stata costante negli anni, soprattutto da noi, però, come dire, il fatto che rimaneva in un'ottica prettamente individualista non portava a nessuna possibilità di conflitto, di auto-organizzazione. Allora, fare invece la questione di riuscire a fare le occupazioni a livello diciamo collettivo ha rotto un po' quell'immaginario, diciamo, di dualista, perché c'era anche tanta gente che aveva paura di fare questi tipi di passaggi. E come dire, il fatto che nell'ultimo anno ci sia stata questa capacità collettiva di unirsi più soggetti diversi, si è anche uscito un po' fuori da quella che era una vergogna, no? Perché poi immagina una città di provincia come Cosenza, come Catanzaro, come Reggio Calabria, dove ci conosciamo tutti fondamentalmente, noi non stiamo parlando di città metropolitane, ma tu immagina pure che gli italiani hanno, come dire, vergogna di prendere uno striscione e andare tutto il comune, anche perché nella maggior parte dei casi gli italiani che poi occupano hanno tutti quanti avuto dei rapporti con la politica, per clientela, per avere un posto di lavoro, per avere pagato una bolletta, cose del genere. Quindi c'era un po' quello che noi avevamo negli anni scorsi, che era un po' questa vergogna, insomma, che veniva fuori. Invece nell'ultimo anno questa capacità, diciamo, di mettersi insieme, di costruire un percorso che vada al di là di quelli che sono stati i canoni delle occupazioni degli anni passati, che ha avuto che ha la capacità di generare un movimento che ti dà forza, ti dà immaginario, come dire, ha costruito una dinamica di rottura enorme rispetto a quello che era a quello che era il passato, tant'è che diventi comunque punto di riferimento di tanta e tanta gente che anche si occupa adesso singolarmente, poi ti viene a chiedere consiglio, ti viene a chiedere a capire come può, soprattutto poi dopo l'articolo 5, come può risolvere questi, quelli che sono i problemi. Sull'articolo 5, sulla questione appunto delle case popolari, allora sulle case popolari ci stiamo lavorando negli ultimi tempi, sono venuta fuori negli ultimi tempi questa questione della svendita all'asta. Sull'articolo 5 noi il primo caso dell'articolo 5 l'abbiamo avuto proprio in un'occupazione nostra singola, e lì abbiamo fondamentalmente, lei non l'ha detto che non attivava, quindi abbiamo attivato a modo nostro. La cosa interessante è stata che noi, nel momento in cui è venuta fuori questa roba, siamo andati ad occupare l'assessorato alla casa, perché erano usciti anche loro con un articolo sui giornali dove dicevano che volevano a tutti i costi fermare l'occupazione abusiva, e l'articolo 5 era una delle giuste modi per evitare che si continui a fare questi tipi di azioni. Andammo ad occupare l'assessorato e li abbiamo messi un po' alle strette. Alla fine questi non avevano neanche capito che cazzo era questo articolo 5 e hanno avuto anche difficoltà a risponderci. Fondamentalmente poi, noi qua la gestiamo in un'ottica come è stata poi negli ultimi anni, cioè nel senso che ci si allaccia abusivamente punto e basta, nel senso. Però è evidente che questa qua è una partita tutta aperta, non solo a Cosenza ma in tutta Italia, nel senso che sia l'articolo 5 sia l'articolo 3 che riguarda le case popolari sono quei pezzi del piano casa che tocca smontarli ognuno sui propri territori nella maniera migliore possibile per dar continuità a quella che è la situazione dell'abitare. Senti, non so se ti ho risposto a tutte le domande. Sì, l'ha risposto anche molto, in maniera molto puntuale. Non so se ti va di aggiungere qualcosa, approfondire alcune delle tematiche, se no potremmo concludere qui e salutarci. Dimmi te. Sì, io vi ringrazio per la possibilità di ci avete dato. Noi, io ti posso chiudere sul fatto che noi stiamo lavorando a costruire un percorso che guardi all'area urbana di Cosenza, perché Cosenza si è ampliata, c'è una volontà da parte della politica istituzionale di costruire un'area urbana e quindi di costruire una speculazione sul nostro territorio, e si sta lavorando a costruire un'assemblea dell'area urbana che tenga dentro tutte quelle realtà, ma soprattutto quelle insorgenze, quelle lotte che quotidianamente sul territorio agitano. E sicuramente noi stiamo già lavorando sul fatto degli sportelli, che non sono solamente sulla casa ma che riguarderanno anche altre questioni, stiano sia sul rente, stiano sia sull'università, che sono poi i terreni dove anche lì quotidianamente si sviluppano meccanismi di sfruttamento e di precarizzazione. Va bene, quindi magari non mancheremo, anzi invito nello sviluppo di questo lavoro che state provando a mettere in campo, di contattare Radio Onda Rossa, parlarne, discuterne e raccontarci fondamentalmente. Per cui io ti ringrazio e saluto te e tutti i compagni e le compagne, sia gli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Onda Rossa, ma anche compagni e compagne della Regione Calabria, e ti salutiamo Ciao. A presto. Buona giornata a tutti. Grazie, ciao. Così siamo arrivati alla fine di questa puntata sulla Regione Calabria. Anticipo che la prossima puntata andrà invece nella Regione Puglia. Dovremmo avere collegamenti da Lecce, Taranto, Brindisi, Bari e Foggia, per cui dovremmo riuscire a coprire quasi la totalità dei capoluoghi di provincia della Regione Puglia. La data ancora da decidere, ma sarà o prima di il sabato prima di Natale o quello subito dopo le feste, natalizie. Ad ogni modo ci sentiamo. Un saluto a tutti e tutte, a presto. Il nonno di mio nonno era brigante, come Carmine Croppo e Lincoln Hanco, e sua